Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come già vi hanno anticipato i nostri GR, la benzina, la tratteremo nella seconda ora del programma. Preannuncio subito che non spero di ottenere grandi risposte, ma insomma il dato è molto semplice: la benzina è a nuovi record, nel caso specifico nei distributori Esso, è volata a 1,613 euro al litro e anche 1,600 euro nei gestori Kuwait. C'è un dato che tanto so che resterà come i misteri di Fatima, inspiegabile, insoluto. Allora, la benzina oggi vale 1,61 euro, il prezzo del petrolio è a 995 dollari al barile, ossia 65 euro al cambio 1,45, che è il cambio di oggi. Agosto 2008 il prezzo del petrolio era 148 dollari, al cambio di allora 1,58 euro valeva 93 euro e la benzina però costava di meno. Cioè il barile lo paghiamo 65 euro, due anni fa lo pagavamo 93 euro, però due anni fa costava 1,56 euro, adesso costa 1,61 euro. Ripeto, i misteri inspiegabili. Io, Fatima, non so se sia il termine giusto, qualche tipo di mistero comunque c'è dietro. Ancora parleremo anche dell'energia, e qui entriamo nel tema che ci accompagnerà lungo tutta la puntata. Mi riferisco alla manovra finanziaria, perché al di là di quello che è uscito giovedì e poi venerdì, in realtà continuano a essere non chiari alcuni perimetri della manovra. Per esempio, mentre sulle pensioni dovrebbe essere confermato il blocco della rivalutazione delle pensioni, quindi risparmi per 2 miliardi e 200 milioni di euro, riguarderà in varia misura 4 milioni e 400 mila persone, sulle rinnovabili è giallo, nel senso che sembrava certo che sarebbero stati ridimensionati gli incentivi alle fonti rinnovabili, che oggi sono finanziati attraverso la voce oneri di sistema e che rappresentano, gli incentivi alle fonti rinnovabili, il 13% di quello che noi paghiamo in bolletta. Sarebbero dovuti diminuire del 30% con un beneficio sull'importo finale della nostra bolletta al 3%, cioè doveva far calare la bolletta del 3%. Però, poco fa, un'ora fa, il ministro Romani ha smentito che vi siano riduzioni agli incentivi per le fonti rinnovabili, riduzioni del 30%. E quindi cercheremo di capire di più se ce la facciamo nel corso del programma. Nessuna notizia invece per quello che riguarda l'incontro tra l'agenzia di rating Standard & Poor's e la Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La Consob venerdì in serata, noi abbiamo dedicato la puntata anche venerdì alla valutazione di queste agenzie che danno i voti ai governi e che però non rispondono a nessuno, mettiamola così, se non ai loro azionisti, che sono fondi comuni di investimento, fondi di investimento, fondi anche di private equity, per cui fondi. È arrivata venerdì sera la notizia che la Consob ha deciso di convocare e chiedere chiarimenti a Standard & Poor's Italia per avere diffuso notizie sulla manovra e sull'outlook al debito italiano e anche altre notizie a mercati aperti. Non si sa né l'ora né la durata né se c'è stato questo incontro, nel senso che c'è massimo riserbo. Abbiamo chiesto anche a Standard & Poor's, ma è un no comment su tutta la linea, non confermano nemmeno l'incontro oltre che chiaramente l'orario. Per il resto, i mercati finanziari meno 0,20% in questo momento: Milano, Parigi meno 0,1%, Francoforte più 0,3%, l'America è chiusa per l'Independence Day, Londra più 0,60%, euro quota 1,4513. Chi va bene? Molto bene oggi il Monte dei Paschi di Siena, più 5,1%, e UbiBanca più 4,50%, bene anche il Banco Popolare più 3%, ancora effetto Grecia, ma non solo. Banca Popolare di Milano più 2,30%, seguono poi altri bancari ma più distaccati. Bene invece Fiat più 2,33%, Exor la controllante più 2,1%, Estima Microelectronics più 1,6%, Finmeccanica più 1,40% come Campari, Autogrill più 1,30%, come Mediaset. Chi perde? Atlantia, e non poco, il 5,40%, Enel Green Power l'1,5%, sulla voce appunto del taglio anche alle rinnovabili. Poi, ripeto, vedremo la conferma. E le grandi banche, ossia Unicredito perde l'1,30%, Intesa San Paolo perde lo 0,70%, inflessione anche Enel -1,1% e Mediobanca -1%. Tra l'altro, anche su Atlantia, da quello che si capisce, ma qui parliamo di indiscrezioni, il ragionamento degli operatori è su alcuni tagli alle concessioni contenute nella manovra. L'euro a quota 1,45,13. Partiamo subito con le notizie in breve, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Al di là quindi della chiusura di Wall Street e al di là dei prezzi di benzina e petrolio, il petrolio, volete sapere cosa fa? Giustamente è in leggero rialzo, ma a $95 al barile, l'oro $1,494 l'once, quindi sotto i livelli record. Dicevo, oltre alle notizie che riguardano petrolio e benzina, rispondo già a alcuni ascoltatori, è chiaro che pesano anche le accise volute dal governo, i 4 centesimi di fine giugno per trovare le risorse per fronteggiare gli sbarchi di clandestini o profughi dal Nord Africa, più il centesimo aggiunto il 1° luglio per reperire i soldi per il fondo unico sullo spettacolo. Però insomma, vediamo anche il resto. Dicevo, oltre a questo c'è, e fa notizia, la decisione dell'authority e dell'antitrust italiano di multare la compagnia aerea Ryanair con €500.000 di multa. Al di là dell'ammontare della multa, perché poi tra l'altro è un provvedimento che il nostro antitrust ha preso nei confronti di grandi e piccole compagnie aeree europee, si arriva fino a €1 milione come multa complessiva, quella più grossa è quella Ryanair, perché per l'ingannevolezza, la scarsa trasparenza, l'inadeguatezza e in alcuni casi la carenza di informazioni relative ai prezzi dei biglietti che vengono presentati al mercato senza indicare alcuni costi che vengono successivamente aggiunti al momento del pagamento con carta di credito, pur essendo prevedibili e inevitabili. Allora, l'antitrust dice: i prezzi che offrite sono prezzi, sono specchietti per le allodole, perché non è mai così il prezzo, ci sono sempre delle spese aggiuntive. E poi continua l'antitrust: spesso anche i prezzi offerti sono introvabili, cioè anche in questo caso si tratterebbe di offerte fallaci. Ancora parleremo dell'aumento dell'imposta di bollo sui dossier e titoli, secondo alcuni va a colpire soprattutto il mondo del risparmio e di chi sostanzialmente investe, non solo i grandi operatori ma anche i piccoli risparmiatori. Anche di questo parleremo. Andiamo avanti con invece le agenzie di rating, di nuovo protagoniste oggi, perché Standard & Poor's, ma questa volta si occupa della Francia, ha detto che le proposte avanzate dalla Federazione Bancaria Francese per ristrutturare il debito della Grecia porterebbero, secondo i criteri di Standard & Poor's, al default, al fallimento della Grecia. Nel frattempo Unicredit, banca italiana, chiaramente parteciperà all'iniziativa di riscadenziamento del debito greco avanzata dalle banche francesi e alla quale hanno aderito anche le banche tedesche. E vale la pena ricordare che il pericolo Grecia non c'è solo per le banche europee, però c'è anche per le assicurazioni, perché molte assicurazioni hanno in portafoglio tanti titoli greci. La Francia ha compagnie assicurative esposte per 9 miliardi, l'Italia 4 miliardi, di cui 3 miliardi alle generali, la Germania 3 miliardi e mezzo, il Belgio 2 miliardi e mezzo, solo come fronte assicurativo. E ancora sulla manovra, la Commissione europea, la manovra italiana dice bene la manovra, ma attendiamo tagli. I dettagli, scusatemi, della manovra li attendiamo anche noi, vista ogni tanto l'incertezza che la domina. Oggi Corrado Passera a Como sulla manovra, il numero uno di Intesa San Paolo, ha detto per la crescita servono altre misure, al momento nella manovra ci sono più indicazioni di tagli che di crescita. Poi ha fatto anche un commento sull'agenzia di rating dicendo che adesso sono rimaste bruciate dalla crisi per aver reagito troppo lentamente e adesso reagiscono troppo. E allora, visto che è il tema anche di oggi, partiamo subito con la manovra, con alcuni aspetti della manovra. Quello che ci interessa adesso è la parte che sembrerebbe essere definitiva sulle pensioni, poi vediamo se riusciamo a fare anche quella che riguarda la tassazione in qualche modo o l'imposta sui dossier titoli, e poi arriveremo alla parte della bolletta energetico, meglio, degli incentivi alle rinnovabili. 349-238-6666 per i vostri sms. Vincenzo Miglietta, aiutaci tu, illuminaci tu. Buonasera Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, il fronte più incerto, poi vedremo, è quello delle rinnovabili. Si è capito qualcosa? No. Bene, ciao, così. Grazie, arrivederci. No, dimmi. Nel senso che è veramente un mistero questo, in quanto il testo diffuso oggi dal Quirinale prevede genericamente il taglio del 30% alle rinnovabili. E dopodiché una nota del ministro Prestigiacomo dice così genericamente che questo taglio non esiste, mentre il ministro per lo sviluppo economico Romani ha cercato di essere più preciso e secondo me non ha raggiunto l'obiettivo di chiarire il mistero, in quanto Romani dice non c'è nessun taglio degli incentivi per le energie rinnovabili, dall'altra parte però poi spiega: il Consiglio dei Ministri ha convenuto sull'eliminazione della riduzione del 30% di tutte le agevolazioni che gravano sugli oneri di sistema presenti sulle forniture di energia elettrica e gas, e comunque Romani ha detto stiamo studiando una rimodulazione di questa parte. Quindi parrebbe di capire che questo 30% comunque potrebbe esserci, ma indirizzato, ecco, agli oneri di sistema e comunque a quel margine presente poi sugli enti distributori sia dell'energia e del gas. Mi rendo conto che la chiarezza è poca, ma evidentemente non è proprio questo 30% sulle energie rinnovabili. Sì, c'è chi immagina che potrebbe essere sul meccanismo di approvvigionamento dei fondi per le rinnovabili in bolletta. Insomma, non ci si capisce obiettivamente nulla, ma non certo per colpa tua, Vincenzo. La cosa più importante è capire, e questo come anche certezza per chi ha fatto gli investimenti, per chi ha contratto mutui, per chi stava pianificando un investimento, se vi è o meno un 30% di taglio agli incentivi sul rinnovabile, perché il 30% cambia anche lo scenario. Mi sembra che tra le dichiarazioni della Prestigiacomo e quelle di Romani, che più che chiarire hanno, diciamo, complicato ulteriormente, ho messo ancora un ulteriore punto interrogativo, non se ne stia uscendo granché. Confermato invece quello che riguarda l'imposta di bollo sui depositi titoli? Quella parte lì invece è confermata, è evidentemente un nero su bianco messo oggi dal governo, soprattutto dopo le sollecitazioni del Quirinale, e quindi, come è noto, negli ultimi minuti si passa, per quanto riguarda, stiamo parlando dell'imposta di bollo variabile, sì, per i depositi titoli, e si passa da 10 euro per quello mensile a 120 per quello annuale dal 2013, poi per importi sopra i 50.000 euro da 12,50 euro a 150 e per quelli sopra i 50.000 euro da 31,66 a 380 euro. Quindi questi sono un po' gli scaglioni per quanto riguarda il bollo variabile. Sì, su questo magari vediamo di fare anche un approfondimento, perché sembrerebbe delle prime simulazioni che i più svantaggiati sarebbero i piccoli risparmiatori, ossia se la alcuni hanno parlato di patrimoniale mascherata, ma insomma l'imposta di bollo sui depositi di titoli quadruplica da 34 a 120 euro, dal 2013 come tu ricordavi l'imposta sale a 380 euro sopra i 50.000 euro. Praticamente con i rendimenti attuali per coprire la tassa sarebbe stato necessario un investimento in botto di 2.200 euro, adesso con le nuove imposte ne servirebbe uno da 7.600. Praticamente se uno ha 10.000 euro in titoli con rendimento del 3% annuo ha un prelievo di 180 euro, ossia il 60% del rendimento nominale e il 180% di quello reale, visto che c'è anche l'inflazione. 100.000 euro in titoli con rendimento del 3% paga in tasse il 24% del reddito nominale e il 72% di quello reale. Ecco perché si dice, siccome è un'imposta di bollo secca, fissa, va a colpire di più i piccoli risparmiatori. È chiaro, no? L'incidenza è maggiore, minore è l'investimento. E già questo così fa storcere il naso ad alcune persone. Confermo invece Vincenzo che stiamo uniformati al 20% la tassazione sulle rendite finanziarie, esclusi i bot che restano a 12,5? Sì, questo qui è un punto fisso. E poi il fronte pensioni. Allora, mentre ringrazio Vincenzo Miglietta alle prese con, e lo lascio alle prese, lo lascio volentieri alle prese con il rebus degli incentivi alle rinnovabili, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, buonasera. Davide, mi senti? Sì, vi sento, io vi sento perfetto. Ecco, no, tu vai e vieni. Eccomi. Eccoci. Allora, blocco della rivalutazione delle pensioni. Oggi è arrivata una conferma. Confermato per il biennio 2012-2013 il blocco della rivalutazione delle pensioni superiore a 5 volte il trattamento minimo di pensione INPS. Sì, esatto. Se la norma non è cambiata in queste versioni, diciamo, che sono circolate oggi e che sono al vaglio del Quirinale, il blocco resta totale per gli assegni 5 volte superiori al minimo, mentre sarà del 45% per gli assegni tra 3 e 5 volte il minimo. Ricordare che la misura prevede che il blocco, la indicizzazione dell'inflazione, si limita appunto alla parte che cede le due soglie, quindi sostanzialmente il blocco è al 45% per la parte maggiore alla pensione di circa 1.400 euro al mese e sarà totale per la pensione sopra le 2.000 e mi pare 400 euro al mese. Ecco, il blocco è confermato fino a che anno? Per gli anni 2012 e 2013 effetto in termini di minore spesa previdenziale stimata fino al 2014 è un risparmio accumulato nel triennio di 2,2 miliardi, per cui è una misura del pacchetto previdenza, anzi è la misura del pacchetto che ha un impatto immediato sui saldi di finanza pubblica dentro l'orizzonte temporale del 2014, mentre le altre invece avranno un effetto successivo. E quindi confermati anche i 2 miliardi e 200 milioni che il governo si attende come più che nuove entrate, minori uscite, per dirla minore proprio. Minore spesa, esatto. Minore spesa. Grazie anche a Davide Colombo. Mentre in questo nostro aggiornamento in diretta sulla novità della finanziaria, volete ancora sapere del bollo? Allora, è un bollo sul deposito titoli, non è una tassa sul guadagno, sul rendimento. Altra cosa è aver equiparato al 20% la tassazione sulle rendite finanziarie e omogeneizzato tutto al 20% tranne i bot. Ripeto, si può arrivare fino a 380 euro. L'importo varierà infatti in base al valore del conto. Se uno ha praticamente si va dai 120 euro annuali per le comunicazioni di intermediari finanziari ai 150 euro per i conti inferiori ai 50.000 euro relativi a comunicazioni di depositi e titoli presso banche, fino ai 380 euro per chi supera i 50.000 euro. Il fatto che però non sia proporzionale ma sia un bollo fisso fa, ripeto, storcere il naso e la bocca a più di un osservatore che dice va a colpire più il piccolo risparmio che non il risparmio di dimensioni grandi. Di questo parleremo dopo il meteo e la pubblicità. 349 238 6666 per i vostri sms. faremo anche il collegamento di borsa. ...17:34 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso parliamo di borsa, alcune risposte. Allora, volete sapere dei tagli alla politica? Allora, gli stipendi dei politici dei gran comitati di Stato non potranno superare i livelli medi degli stipendi europei previsti per cariche omologhe, tranne i vertici della Banca d'Italia. Questo dentro la manovra. Un ulteriore taglio del 10% al finanziamento dei partiti politici, che va a portare la riduzione complessiva al 30%, lo prevede l'articolo 6 della manovra, nel capitolo tagli alla politica, meno 30% complessivamente dei rimborsi ai partiti dalla prossima legislatura. E poi Auto Blu conferma dei limiti, non possono superare 1600 cc di cilindrata, tranne quelle in dotazione al Capo dello Stato, il Presidente del Senato, della Camera, della Corte Costituzionale, del Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Molto altro non ho da dire. Sulle pensioni, allora, mi rendo conto che vedremo se poi verranno confermate, però per ora non le abbiamo viste confermate, alcuni blocchi anche alle pensioni dei deputati. Perché lo dico? Perché è chiaro che nel momento in cui tu blocchi tutti gli aumenti, come abbiamo appena raccontato nella manovra sulle pensioni, blocchi la rivalutazione delle pensioni, dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo di pensione INPS, beh, devi anche, se chiedi questo sforzo al paese, forse devi dare anche il buon esempio. E allora io faccio solo notare, senza nessun tipo di populismo, che l'ammontare per la spesa previdenziale, come spesa della politica, è aumentato, perché lo stanziamento previdenziale alla Camera passerà dagli attuali 138 milioni di euro a 143 milioni di euro nel 2013. Faccio anche notare che ci sono 1329 deputati più 484 familiari che godono della reversibilità, che prendono la pensione da parlamentare. Sono 1813 persone, la media è 6350 euro mensili di pensione a testa, quindi mi sembra che rientrino in quella alta. E poi altre chicche, torneremo a farci una puntata se volete, io ogni tanto mi deprimo a parlarne, ma insomma, come fa a costare il presidio medico a Montecitorio? Il presidio medico, non è un ospedale. Se un parlamentare sta male va giustamente in ospedale, in clinica, ma il presidio medico per la pronta costa 1.600.000 euro l'anno, il presidio medico di Montecitorio. Adesso, per non rovinarmi la settimana, passiamo subito alla borsa. Borsa a meno 0,20%, Livia Zancaner, un felice ritorno. Livia, buonasera. Buonasera, grazie. Com'è andata Wall Street? Wall Street oggi era chiusa. Brava. Ovviamente. Brava. Beh, ovviamente. No, Independence Day. Brava, e allora al di là del tranello, meno 0,20 Milano, meno 0,1% Parigi, più 0,30 Francoforte. Oggi due titoli a far notizia, su due fronti opposti, diciamo. Monte dei Paschi più 5,14% e aggancerei anche UbiBanca più 4,80%, e invece Atlantia un tonfo, meno 5,40%. Sì, allora partiamo da Atlantia. Il titolo è iniziato a scivolare verso metà, cioè dopo la metà della seduta, e le attese sono appunto per i nuovi provvedimenti contenuti nella manovra trasmessa oggi al Quirinale. Infatti le voci circolate la scorsa settimana indicavano una possibile stangata per le società che gestiscono pedaggi autostradali, appunto come Atlantia. Quindi indiscrezioni della scorsa settimana indicavano l'introduzione di una norma che limita al 2% la deducibilità degli ammortamenti. Questo significa un periodo di ammortamento che passa da 20 a 50 anni. Secondo invece le indiscrezioni circolate oggi, il taglio sarebbe addirittura all'1%, quindi per un periodo di ammortamento di 100 anni, quindi il doppio di quanto previsto la settimana scorsa. Questo, secondo gli operatori e secondo gli analisti, avrebbe un forte impatto sui conti e sui piani finanziari della società. Infatti il titolo ha perso oltre il 5%. Quindi effetto finanziaria su Atlantia. Sul Monte dei Paschi di Siena e anche Ubibanca invece? Allora, bisogna dire che le banche di grandi dimensioni oggi sono state penalizzate dall'allarme, dal nuovo allarme lanciato da Standard & Poor's sulla Grecia, e il comparto bancario quindi in Europa ha perso terreno. Sono invece state premiate le banche di media di dimensione per quanto riguarda appunto Piazza Affari, soprattutto MPS ed Ubibanca. Vi sono arrivati giudizi positivi da parte del mercato, degli operatori, e gli operatori appunto si attendono che l'aumento di capitale di MPS chiuda con successo ancora di più rispetto a quello di Ubibanca, che ha tenuto comunque sottoscrizioni pari al 92%, quindi queste attese hanno premiato i titoli. Ancora bene anche il Banco Popolare più 3%, invece deboli oggi le grandi banche, soprattutto mi riferisco a Intesa San Paolo e Unicredito, rispettivamente Intesa perde lo 0,70, Unicredito l'1,40. Strana questa divergenza. No, appunto, nel senso che le grandi banche sono state penalizzate dalla debolezza del settore europeo, che ha perso terreno, e sulla scia appunto dell'allarme lanciato da Standard & Poor's sulla Grecia. Infatti Standard & Poor's ha detto sostanzialmente che il meccanismo che stanno mettendo a punto in Europa i governi per scaranzare il debito di Atene sarebbe in sostanza equiparabile a un default selettivo per il paese. Un default selettivo per il paese, sì, che il rinegoziare quella proposta francese poi adottata anche dalle banche tedesche. Fiat, bene Fiat ed Exor, qui forse pesano in positivo i dati di Chrysler, più 30% nelle vendite arrivati venerdì sera. Sì, infatti allora bisogna dire che il settore in Europa ha chiuso con un rialzo di oltre l'1%, comunque nel dettaglio per quanto riguarda Fiat, sì, le azioni hanno beneficiato delle buone indicazioni arrivate dagli Stati Uniti. Infatti a giugno le vendite di Chrysler sono salite del 30% contro il più 7% del mercato. In Italia invece il lingotto ha continuato a soffrire anche a giugno, con una flessione delle matricolazioni del 3,6% a fronte di un mercato che invece ha segnato un meno 1,7%. Ancora sui titoli, Telecom oggi l'abbiamo vista in flessione, chiude non sui minimi, comunque uno 0,60% di calo sotto l'euro per azione. Sì, allora, in generale, allora, secondo gli operatori, il titolo nei giorni scorsi era rimbalzato senza motivo, guadagnando oltre il 7% nelle prime quattro sedute della scorsa settimana, quindi ora sono continuati i realizzi mentre emergono anche le prime indicazioni degli esperti sul secondo trimestre. Secondo appunto il mercato, quello che sta iniziando a circolare sul mercato, le stime del consenso potrebbero scendere dell'1-2% a livello di margine operativo lordo, ma gli operatori sottolineano che l'azione Telecom Italia in borsa a questi prezzi sembrano già scontare uno scenario ben peggiore e le attese sono comunque per un calo dell'11,9% dei ricavi da servizi di TIM, quindi nel mobile, che comunque resta debole. Ancora sui titoli notiamo, volete sapere tutto la galassia Fiat? Vabbè, ve la do. Però c'è Fiat Industrial, quindi camion e trattori, che perde lo 0,45%. Lottomatica, anche qui un effetto manovra, chiamiamolo così. Sì, infatti allora Lottomatica ha chiuso poi poco sopra la parità con un più 0,15%, però per metà seduta ha fatto molto bene. E appunto qua ci si attende dal pacchetto giochi inserito nella manovra finanziaria un gettito di 1,4 miliardi di euro in tre anni. Il contributo più rilevante sarà quello del rinnovo delle attuali licenze per le slot, per la gestione delle slot machine, e la gara da 400 milioni che assegnerà le nuove concessioni per le videolotterie. Tra l'altro faccio notare che oltre all'automatica bene si sono mossi anche altri titoli che non abbiamo citato, nel caso specifico Campari più nei 70, ST Microelectronics più nei 70, Mediaset più nei 40, Finmeccanica più nei 40, Autogrill più nei 30, Pirelli più 1%, Ansaldo più 0,90. Su Mediaset c'è qualche effetto sulla manovra? Ma in realtà te lo chiedo perché il Sole 24 Ore oggi sul sito online, un articolo di Giovanni Negri, cioè che si trova anche sul sito online, scopre una cosa interessante. Praticamente nella manovra c'è una, un po' nascosta tra le righe, una disposizione che obbliga i giudici a sospendere le pronunce di condanna a cifre superiori ai 20 milioni di euro. Cioè, se uno è stato condannato fino a 20 milioni di euro, è esecutiva. Sopra i 20 milioni, sei congelato. 10 milioni in primo grado. Perché parlo di Mediaset? Perché c'è un'attesa per la sentenza sul lodo Mondadori. Siccome in primo grado Mediaset fu condannato a pagare 750 milioni di euro, c'è chi ipotizzava un accordo sui 390-400 milioni di euro. Se la norma venisse approvata, è chiaro che Mediaset sarebbe tenuto a versare solo un piccolo acconto, cioè, come capisco io, massimo 20 milioni di euro e non l'intera sentenza. La disposizione prima era facoltativa, cioè il giudice poteva congelare, ma adesso invece avrebbe l'obbligo. Che ti risulti questo? Ha mosso il titolo? Il titolo ha fatto bene, ha fatto più 1,4%, ma in realtà era ben intonato già da questa mattina, quindi non so se sono le indiscrezioni emerse appunto oggi ad aver mosso il titolo, semplicemente. Invece sicuramente ne hanno risentito Enel e Enel Green Power. Anche qui abbiamo aperto con l'incertezza massima che c'è sul taglio del 30% delle fonti rinnovabili. Ripeto, era presente nel testo il ministro Prestigiacomo e poi il ministro ha detto non esiste, non c'è. Il ministro Romani ha detto no, non c'è un taglio, però ci sono altre rimodulazioni. Enel e Enel Green Power, Livia. Sì, infatti questo, allora, sia Enel sia Enel Green Power hanno iniziato a peggiorare verso appunto metà pomeriggio. Enel Green Power ha perso l'1,5% ed Enel l'1,07%, e appunto hanno iniziato a peggiorare sulle attese relative al taglio del 30%, come dicevi tu, di incentivi e agevolazioni in bolletta, ma bisogna sottolineare che anche il ministro Romani poi ha detto che non vi è nessun taglio degli incentivi, ma i titoli comunque non ne hanno beneficiato, nel senso che hanno continuato comunque a perdere terreno. Sì, o il mercato non crede Romani o si muoveva su altro, insomma a questo punto mi sembra abbastanza chiaro. Volete sapere giustamente anche molto sul deposito titoli, sull'aumento del bollo, che insomma più che aumento è un raddoppio, anzi quadrupla in alcuni casi. Adesso ne parliamo, così come invece sull'esenzione, o meglio la tassa al 12,5% sui guadagni da capitale resta per i titoli di Stato, quindi vuol dire BOT e anche BTP, va al 20% invece sulle altre forme di guadagno da capitale. Migliori e peggiori, prima di tutto però Atlantia è il peggiore, TBS Group segue con un meno 5%, Icon meno 4,50%, Arena meno 4,40%. Il migliore invece Enervit più 17%. Si sa qualcosa di Enervit, Livia? No, ma sono diverse sedute che continua a salire il titolo, però non vi sono novità, non vi sono notizie. Set pagine gialle più 8,24, Cicolella più 7,60, Cicolella Basic Net più 6,14, Eurotech più 6%, Biancamano più 5,20% e poi Monte dei Paschi e Ubibanca. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Traffico e poi parliamo del bollo sul deposito titoli, se è vero, come dicono alcuni, che in realtà penalizzi chi ha gli investitori più piccoli, e altri l'hanno chiamata una patrimoniale nascosta, ma non interessa capire l'effetto e su chi va soprattutto a incidere. ...17:48, dicevamo allora dell'altro aspetto della manovra. Le pensioni le abbiamo affrontate in apertura, torneremo anche sul conto energia, o meglio sulle fonti rinnovabili. L'altra cosa che fa discutere è appunto il bollo, o meglio la rimodulazione della tassazione in qualche modo sui guadagni da capitale, che prevede anche il quadruplicamento dell'imposta di bollo sui depositi titoli. E poi anche la tassazione delle rendite finanziarie uniformata al 20%. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ripeto perché

ad esempio laddove quando c'è la tassazione su capital gain, sui trasferimenti di titoli da dossier a dossier, se più dossier sono interessati nello stesso modo, possono fare in modo che vi sia delle soluzioni a favore di questi dossier, perché uno può avere tre conti per motivi propri ma interessati nella stessa maniera, quindi vengono considerati come se fosse un conto unico nel momento in cui la fiscalità verrà applicata, ad esempio con la compensazione delle perdite e dei guadagni. E quindi non escluderei che anche in questo caso, laddove vi fossero dei conti con la stessa intestazione, poi il provvedimento preveda che si possano fare degli accorpamenti per evitare degli aggravi eccessivi. Però in questo momento non lo sappiamo ancora, perché la normativa... Sembra che, essendo un bollo, in un posto di bollo, chiaramente non poteva essere progressiva, ma forse bisognava trovare un altro metodo, perché, ripeto, va a colpire chi ha poco in deposito titoli, perché il minimo sono 120 euro, quindi se io ho 5.000 euro comunque pago, avessi anche 1.000 euro in titoli pagherei comunque 120 euro, cioè pagherei il 12%. E non c'è investimento drusiano in questo momento che renda 12%. No, sono d'accordo. Praticamente con un bollo del genere non mi converrebbe comprarli proprio questi titoli. Sa cosa bisognerà valutare? Non vorrei che fosse che la normativa escludesse o avvantaggiasse la sottoscrizione di titoli di Stato, ad esempio. Ipotizzando magari che sui BOT o sui titoli con durata breve sempre emessi dallo Stato italiano, questa tipologia di bollo possa avere degli effetti meno dirompenti, però certo. Anche questo credo che dovrà essere poi stabilito al momento della discussione. Comunque mi sembra che stia creando non pochi dubbi, confermo invece che la tassa sui conti correnti è scesa dal 27 al 20%, mentre vanno al 20% tutte le tassazioni sulle rendite finanziarie tranne i titoli di Stato, cioè i BOT, BTP, che restano a 12,5%. Grazie Angelo Drusiani, il GR e poi il fronte energia, e chiudiamo in bellezza con il presidente dei petrolieri italiani che ci deve spiegare per la volta numero 50 perché la benzina è così cara se il petrolio costa in euro meno che 2 anni fa. Minuti, invece che chiarirsi la manovra si complica nelle sue spiegazioni, la stiamo trattando da inizio programma. Sulle pensioni il dato dovrebbe essere quello ed è chiaro, sull'imposta da bollo per chi possiede titoli azionari, e quindi allora ci avete chiesto di tutto. Attenzione, il deposito titoli, l'imposta da bollo è annuale, non è una tantum, se no non stavo neanche a parlarne. Ed è ovvio che passando da 34 a 120 euro e andando a 380 per i depositi sopra 50.000 euro, è chiaro che se uno avesse un investimento azionario di 100.000 euro, 380 euro di bollo sono poca cosa, mentre per un investimento azionario tramite la banca di 2.000 euro poniamo, è chiaro che 120 euro non ci vuole, o anche 1.000 euro semplicemente, non ci vuole un genio per capire che il peso è molto maggiore. Attenzione a questo, è vero, non è progressiva. Detto questo, si infittisce di misteri, di cose che emergono tra le pieghe questa manovra finanziaria. Confermo che sta montando una notizia che era passata quasi inosservata, e cioè la sospensione nella manovra finanziaria per le condanne superiori ai 20 milioni di euro. Sì, al di là del fatto della valutazione che uno può dare, la cosa che farà molto discutere se verrà confermata è che questa misura andrebbe a beneficiare Mediaset, qualora venisse condannata nel processo di appello che è in corso a Milano. La sentenza è attesa brevissimo per il lodo Mondadori. In primo grado, cioè la prima sentenza obbligò Mediaset a pagare 750 milioni di euro. Ripeto, stando a varie ipotesi, anche nel caso di un patteggiamento, di una sentenza più bassa, dovrebbe essere intorno ai 390-400 milioni di euro. È chiaro che se invece al massimo dovesse lasciare 20 milioni di euro, vi sarebbe un vantaggio economico fortissimo per Mediaset. Questo anche qui lo capisce anche un bambino. Attenzione, dico a chi scrive, il bollo non è una tassa su chi guadagna in borsa, cioè il bollo lo paghi comunque, che i tuoi titoli guadagnino, che guadagnino l'1%, che guadagnino il 10%, è un bollo, come una marca da bollo che si mette per altre pratiche burocratiche, per cui tu comunque paghi dai 120 euro in su e comunque guadagni, che tu guadagni o che non guadagni, perché non c'entra niente con la tassazione sui guadagni. E poi c'è un altro mistero, ed è che cosa succederà agli incentivi sulle rinnovabili. Perché? Perché fino a due ore fa sembrava tutto chiaro, insomma, ridotti del 30% gli incentivi alle fonti rinnovabili. Invece così non è. Ci colleghiamo con Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Buonasera Jacopo. Buonasera a tutti. Introdotto la Pantera Rosa, allora vediamo se riesce a fare l'ispettore Clouseau di questa manovra finanziaria per quello che riguarda gli incentivi alle rinnovabili. Ci sono i tagli? Non ci sono i tagli? Sì, no? Ma intanto pare che i tagli non ci siano, questo pare adesso da un paio d'ore, nel senso da quando sia il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo che quello dello sviluppo economico Romani hanno detto che nel testo definitivo della manovra non è prevista questo taglio agli incentivi, a tutti gli incentivi, non solo quelli rinnovabili, che sono contenuti dentro alla bolletta dell'elettricità e del gas. Quindi a questo punto, cioè anche dalle tue fonti, insomma, questa riduzione del 30% degli incentivi non c'è. Allo Stato non esiste, probabilmente abbiamo avuto un problema di trasmissione del testo, perché questa ipotesi era stata proposta giovedì scorso, quando c'era il Consiglio dei Ministri, da Roberto Calderoli, Ministro della Semplificazione, per chi non se lo ricordasse, Lega Nord, probabilmente sostenuto dal Ministro dell'Economia, probabilmente. Però poi durante il Consiglio dei Ministri il Consesso dei Ministri ha deciso di non approvare questo taglio degli incentivi, per cui sembrerebbe a questo punto tutto come prima, cioè nessun taglio in bolletta, perché sulla bolletta doveva pesare per un 3%, e nessun taglio sugli incentivi e i benefici dell'energia. Grazie, spero di non dovete risentire Jacopo su questo, perché vuol dire che almeno un'altra cosa certa l'abbiamo messa in cantiere. Grazie a Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. E questo è un mistero per ora chiarito. Ce n'è un altro, a cui vi rimando dopo le informazioni per chi è in viaggio, che però non c'entra nulla col governo. Oddio, il governo ci ha messo la sua zampina, perché insomma stiamo pagando 5 centesimi in più di benzina grazie alle accise, quelle di fine giugno, 4 centesimi di accisa per lo sbarco, per trovare le risorse per fronteggiare l'emergenza sbarchi nel sud Italia, e un centesimo a inizio luglio per il fondo unico sullo spettacolo. Anche qui, attenzione, lo dico a chi scrive, non è un problema, o meglio non è, a mio avviso, così strano ricorrere a formule straordinarie per reperire risorse. Il problema delle accise è che poi non se ne vanno più, nel senso che, come abbiamo spiegato molte volte, noi stiamo pagando ancora le accise per la guerra in Abissinia, per la crisi di Suez, per il terremoto dell'Irpinia, per il terremoto del Friuli. Bene, è quello. Se tu le mettessi e poi le togliessi quando è finita l'emergenza, si potrebbe anche capire. Invece il 99,9% queste accise qui resteranno anche quando vi sarà una libera democrazia in Libia e anche quando, diciamo, non serviranno più per il fondo unico lo spettacolo. Il tutto, dicevo, in un giorno in cui, per la gioia degli automobilisti italiani, la benzina ha toccato un nuovo record storico in questo paese, e voi direte all'AESO, per la precisione 1,613 euro. Voi direte è colpa del petrolio? No, perché il petrolio sta sotto i $100 al barile, ma soprattutto il petrolio pagato in euro costa 65 euro al barile con un cambio 1,45 euro, mentre nell'agosto del 2008, quando la benzina costava meno 1,56 euro, il petrolio costava 93 euro al barile. Il mistero e la soluzione dopo il traffico. Adesso il déjà vu è dietro l'angolo. Comunque, benzina a 1,613 euro, petrolio pagato in euro al barile a 65 euro contro i 93 euro di due anni fa, quasi, ad agosto 2008, quando la benzina però costava 1,56 euro. Allora, vediamo se riusciamo a trovare una spiegazione per questo. Eh sì, adesso senza esagerare, senza montarsi la testa, un po' come Tom Cruise mi sento. Perché è tornato, solo diciamo dal punto di vista dell'obiettivo, non certo del resto, è tornato ai nostri microfoni il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita, buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Le ho messo Missione Impossibile sotto Mission Impossible, questo la dice lunga, su dove vorrei arrivare. Dove si trova De Vita? Io mi trovo a Parigi. È andato lì a far benzina? Stavo, sì, infatti ho preso un taxi adesso e quindi gli ho domandato quanto paga la benzina, la pagano un po' di meno. Allora, mi faccia capire una cosa, io non so più da che parte prenderla, veramente, altro che Mission Impossible. Allora, non mi dica che è colpa delle... sicuramente il governo con 5 centesimi di accisa ci ha messo del suo, però anche levando i 5 centesimi di accisa, io... Il raffronto glielo ho appena dati, mi spiega perché siamo a 1,61 euro con un prezzo del petrolio a 95 dollari che con un cambio a 1,45 euro vuol dire 65 euro al barile, mentre all'agosto del 2008 con un prezzo del petrolio a 148 dollari, ossia 93 euro al barile, con un cambio a 1,58 euro la benzina costava meno, o è meglio 1,56 euro? Beh, perché il cambio mi pare che era più favorevole a suo tempo, mi sbaglio? Io adesso non ho sotto mai i numeri, seguo quello che dice lei. No, le componenti sono sempre due, sono, no? Il prezzo della materia prima e il costo del dollaro. Qualche volta scende la materia prima, ma se nel frattempo sale il costo del dollaro, a quel punto lì evidentemente un effetto annulla l'altro. Quindi questi conti bisogna farli forse esattamente così, con la macchinetta davanti e calcolando quello che è l'andamento dei due indici. Normalmente l'andamento dei due indici è fortunatamente, direi, è in senso opposto, cioè uno sale e l'altro scende. Qualche volta il momento è brutto e invece succede che salgono tutte e due. In questo momento mi sembra che ci abbiamo un indice del greggio che è il leggero calo e un indice dell'euro invece che ci no, però mi scusi De Vita, allora mi pare no, segui i numeri che mi ha dato lei, appunto, se segui i numeri che ho dato io è un po' diverso, cioè il petrolio è a 95 dollari al barile, l'euro, il rapporto di cambio euro-dollaro è 1,45, diventa 65 euro al barile. Oggi 65 euro al barile oggi. E nell'agosto 2008 erano 93 euro al barile perché il petrolio valeva 148, il cambio era 1,58, si fa il calcolo e viene 93 euro al barile. Come mai, se costava 93 euro al barile nel 2008, costa di più adesso il prezzo finale? Perché lei faccia il conto quant'è la differenza, era 1,45 l'euro, adesso è 1,45 l'euro, era 1,58 se non sbaglio, la differenza sta lì. Sì, ma viene fuori 93 euro al barile in questo modo. Adesso io non ci ripeto, non l'ho la macchinetta sotto, ma stia sicuro che capito, non è così. Abbiamo, adesso va ben tutto, ma anche a sole 24 ore ci passano le calcolatrici. Mi dovete dire... Siccome parliamo di questo, prenditi la macchinetta. No, guardi, stia tranquillo che no, evidentemente questi conti li facciamo due volte al giorno, insomma, quindi non ci sono queste differenze, sennò quello che dice lei c'è la differenza addirittura di $40. Mm. E la miseria, non mi sembra una cosa assurda, quindi i conti vanno fatti. Adesso io ne preparo un po' e poi li faccio avere in qualche maniera. Ripetiamo poi agli ascoltatori pure, lo dobbiamo dire. Non vedono l'ora. Ma mi scusi... Ma perché noi spendiamo il 30% in più per un pieno, il 18% in più che in Svizzera, il 22% in più che la Spagna, solo per le tasse e le accise? La tassa è in parte, certo che la tassa è importante. Attenzione che lei prima aveva sentito che citava anche la guerra d'Abissini a proposito dell'aumento delle tasse. È vero, si è sempre aumentata l'accisa ogni volta che succedeva qualcosa nel nostro paese. Però posso dire una cosa, che mentre per tutto il resto noi siamo un po' a rimorchio dell'Europa, in questo abbiamo fatto il battistrada, perché oggi anche in Europa molti paesi hanno un'accisa che ha superato anche la nostra, cioè noi oggi siamo in Europa, diciamo, al centro del gruppo. Quindi sono paesi che hanno addirittura l'accisa un po' più alta e qualcuno che invece ha l'accisa più bassa. Perché tutti i governi ricorrono all'accisa quando hanno bisogno di soldi? Perché l'accisa ha dei grandissimi vantaggi. Primo, si incassa subito, perché dal momento del decreto, un'ora dopo, si cominciano a prendere i soldi. Secondo, sono soldi certi, non c'è evasione, perché naturalmente pagano le aziende e quindi pagano sicuramente. Terzo, non costa all'erario nulla, non c'ha il laggio delle fatture delle tasse, perché le aziende lo fanno senza compenso. Quindi è la forma più immediata per portare a casa dei soldi. E purtroppo, come noi adesso, anche nel resto d'Europa si fa così. Quando serve qualcosa si tocca l'accisa. Che poi sappiamo tutti che l'accisa... Però mi sta spostando tutto l'intento sull'accisa. Le abbiamo già criticate l'accisa, 4 centesimi... E poi il problema dell'accisa è che non viene elevato. Attenzione, non sono 4 centesimi, sono 5,20. Sì, 4 più 1,20. Perché c'è l'IVA. C'è l'IVA. I 4 diventano io, sono 5. Perfetto, 20. Però mi dici... L'aumento ultimo quale... Mi dici una cosa, non è che questi prezzi del carburante da noi si paghino, oltre che per le accise, anche perché c'è poca concorrenza tra i gruppi? Voglio dire... Perché, dice, non bisogna, lei ha dichiarato qualche giorno fa, bisogna abbandonare facili scorciatoie, la rete è aperta, non si può fare concorrenza? Però voglio dire... Guardi che se lei vede anche degli annunci che ci sono in televisione, su grandi canali, lei vede la pubblicità, la promozione di aziende petrolifere, non posso fare i nomi, che naturalmente offrono fino a 10 centesimi di sconto. Qui c'è una guerra che non finisce più sui prezzi. L'importante, sa qual è? È andarsela a cercare questi prezzi, perché su una rete pletorica come la nostra di 24-25 mila impianti, e in Italia ce ne sono almeno 7-8 mila che fanno prezzi come l'Europa, se non addirittura sotto. Sì. Bisogna andarli a cercare, sono certo, se il service, lo stesso servizio che c'è in Europa, si scende e si fa benzina da soli. Sì, però quindi la competizione è fortissima ed è spinta anche dalla grande distribuzione, dagli indipendenti. Lei lo sa che in Italia ci sono gli impianti delle aziende, sono il 50%, l'altro 50% è di terzi. Questi terzi in parte hanno convenzionato con le aziende, ma in parte sempre più numerosi sono con colori propri. Quindi c'è grande competizione su questo mercato ormai, è cambiato tutto nell'arco di 2-3 anni. Volevo dare un messaggio, deve cambiare un po' è anche l'abitudine dei consumatori. Sì, viviamo in un paese in cui la benzina costa poco e che siccome siamo... diciamo tre volte onesti, come dicono nel nord-est, e allora ci piace andare a pagarla là dove costa di più. Allora, ma se va avanti così, fra un po' non useremo più la macchina, quindi diventeremo sicuramente più scattanti e sportivi. Ma lei si è dato una spiegazione sul perché a 65 euro al barile oggi la benzina costa 1,61 euro, mentre a 93 euro al barile 2 anni fa costava 1,56 euro? Io ho una spiegazione soltanto, che è chiarissima. Due anni fa e adesso il margine che c'è fra i prezzi internazionali, che sono quelli che prendiamo tutti a base, e il prezzo al pubblico è esattamente per le aziende di 14-15 centesimi, è esattamente uguale a quello di 2 anni fa. quindi evidentemente questi conti bisogna rifarli un pochino con l'aggiornamento del cambio. Il margine per le aziende, che è un numero facilissimo a trovare, tutte le associazioni dei consumatori ce l'hanno sul tavolo, il margine delle aziende non è cambiato di nulla rispetto a quello di 2 anni fa, il che significa che sono aumentati i costi, se le prezze sono aumentate. Poi possiamo fare tutti i conti che vogliamo. Andiamo bene, proprio bene. No, me l'ha proprio evocata De Vita la sorella. Io non so più cosa fare con lei. Guardi, volevo mettere Rino. Lei ride, ma lei ride perché gode. No, perché lei. No, che gode. Lei gode. No, rido perché voi... lei mi dice che non sa come fare con me. Io che devo fare? Io più che dare. Abbassare i prezzi. Dimmi una volta, tanto che abbiamo ragione, che i prezzi salgono rapidamente e in maniera non legata no, a. No, no, no. Allora non ci capiremo e mai. Allora, aspetti, io no, le do un altro messaggio. Lei mi deve prendere pure i messaggi miei. È 10 anni di vita che pigli i messaggi suoi. Veda le dichiarazioni fatte anche dall'antitrust, che questo problema della salita di corsa e della discesa piano non esiste, non lo dico io, lo dice l'antitrust, l'ha detto la Commissione Europea che si è ritrovata, lo dice il Ministero dello Sviluppo Economico. Allora va De Vita, facciamo così, posso darle. Presidente De Vita dell'Unione Petrolifera Italiana, come Tom Cruise, faccio schifo, la missione impossibile è fallita miseramente, ha vinto lei anche stavolta. Io non, se poi mi porta dei dati magari ci confrontiamo con la macchinetta, come dice lei, che facciamo a vedere i dati. Detto ciò, siccome non ci facciamo mancare nulla in sto paese, un minuto fa è uscita un'agenzia che vi leggo al volo, in realtà la riduzione agli incentivi alle rinnovabili c'è, quindi prima c'era, poi non c'era, mo è tornata, e sembra che ci sia appunto la riduzione del 30% degli incentivi per le fonti rinnovabili. Fare una puntata così veramente significa lavorare solo di cronaca. Vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.